Ma non è che questo è un po' di un'altra cosa, ma è un po' di un'altra cosa, ma è un po' di un'altra cosa.